Mirillo, buongiorno, ben ascoltato, Bobo. Ehi, Bobo, mi è rientrato dalla colazione qua, mi. Sentivo, Bobolino, non ascolti a Bobore. Amore, tu l'ascolti Antonio? Sta lì alle corna arrivatoci. No, sono vicino a casa di Gianni. Cava, non sono Gigi Vulcano io, Ma se io volevo, non so se si mangiamo un messaggio di mortalità. Buongiorno, 73 salutone, dai. Il bulldozer qua a nord di Sardegna, cittadina di Sassari, la mia. Io sì, buongiorno, siamo un po' di nuovo, sono stato con la provincia di Taranto, Avevamo un respiro qua, lo sai una mattina, cap. Siamo già scambiati due chiacchiere ieri, mi sembra, dai. Tutto Roger K, in compagnia, dai, un pugno di amici qua. C'è anche il Birillo, non so se l'ascolti. Attento, Spillo, se ascolti Natalino Alfa 1 da Sassari, cambio. Vediamo Spillo, ascolti il bulldozer qua. Ascolto il bulldozer, fate chiaro, ma qua sono di Valle, siamo a Campagna Mandoria. Abbiamo stazione Ferla 1, Bombolino, Alfa 1, Bombore Birillo. Buongiorno, sono Fernando, come ti richiamo, capo d'aula. Positivo, dai. Avanti la Serbia, la sentite? Cava, avanti la Serbia, provincia di Belgrado. Si ascolta il nord di Sardegna, città di Sassari, avanti. Buongiorno, vai, l'operatore bulldozer qua, nord Sardegna, città di Sassari. Dicevo in compagnia di amici qua, in QSO, capito, Serbia. E buongiorno, operatore Boba. Qua operatore bulldozer, capito. Vai avanti, Alfa 1, si ascolti qua, Boba, dalla Serbia. Sì, ma non lo so se ascolta a me, sono in zona bassa qua. Attenzione Serbia, si ascolti Natalino Alfa 1 dalla città di Sassari nel nord della Sardegna, capito? Attenzione Serbia, si ascolti in queste stelle. Forse non ti ascolto, dai. Sì, lo sento meno, posso mantenere. Positivo, vai, l'ascolti, ti ascolta Natalino, un po' basso. Sì, l'ascolti basso perché lui è in BM, capito, BM. Aspetta, ti arrivo a casa e vedrai che ti arrivo a fondo scala, cappa. Dai, Antua, l'ascolti questo della Serbia, stazione Boba. Cappa della Rosso. Solo che sentito, Quindi si vuole due stelle la città. Non si rabbo trucca. Ah, va sul rumore. Dopo c'è sempre più questo. Magari la propagazione si apre e si chiude. C'è il vino, Penso da dentro dalla station a casa che sono davanti al cancello. Va. Signori, io sono arrivato, Dai, ci sentiamo dopo. Dalla grava. Bobo, stanno scendendo dall'ABM, capito? Se mi ascolti, stanno scendendo dalla macchinina. Ha detto che riprendono dalla stazione fissa, cap. E Bobo, piccolino, ma già ti ascolto, dai. Piccolino, segnalito di 3 c'hai qua, eh. Hai un segnale di 3, la radio è un po' bassina, magari c'è in zona negativa, Positivo, se non mi sale il QRM ti ascolto, Bobo. Ti scappati siete. Allora. Cosa ci siamo? Me, c'era Babore che ti salutava, Natalia. Io stavo scendendo. Babore, se ci sei ancora, salutoni, 73. Gavagava, Salvatò, tutto. Quello lo sai, c'è caldo. Va bene, mi è spiaciuto che adesso che sono arrivato non c'è Boban, che l'avrei salutato come si deve. Ah, già mi avrebbe sentito, penso. E ha detto che sono durato l'antenna, se no... Hola. Se ascolti qua. Boban, ci sei? Lì lo senti questo dal sud della Spagna? Sta arrivando basso basso. Già lo sento, ma è incomprensibile. Cioè adesso ho messo la trantenna. Capito? Hola. C'è un disturbo ogni tanto che si fa sentire e sporca tutta la modulazione, la fanguarla. Ho messo anche l'altra antenna per sentire meglio. Problema di propagation. Cazzo, come sta arrivando ogni radio. Per chi? Tu. Cazzo, lo sai come ti sento in cuffie? Tremendo. Va bene, lo tolgo l'eco. No, no, ti sento benissimo. Vai a fare così. Cosa? Che regala. Con quel dito lì non sono mio adesso. Che ho fatto per qua. 9:15 Natalisci qua, eh? Figurati. E sono con un pezzo di filo. Se lo vedi ti metti a ridere. E non sai quanto funziona bene in DX. Non vuol dire che hai fatto una cosa buona. Adesso sta alzando la propagazione. È come il cuore. Allora, come mi intendo qualcuno di cui questa però lo accordo meglio. Perché vedo che non ho i picchi di modulazione come si deve. Non mi sentite? Sassari la mia. Sassari, la mia cap. Non mi ascolta. Vabbè. Funziona così. Con un pezzo di filo, se vedi come sto uscendo adesso, ti spavento, Massimiliano. Ma sto uscendo bene, va bene. Ehi, a chi mi chiama? Perché questa va bene per lontano, per vicino non va bene, per Sassari e dintorno non va bene. Lo so che ero più forte, ma ero in verticale, adesso sono in orizzontale, capito? Giulio, vabbè. Io sono qua. Non so se sei qua. Stavo aspettando che finisse il passaggio lontanino, stavo aspettando per non disturbare. Segnalito con quel di polo come ti arrivo io, Natali? 9.05 qua stai arrivando. Uguale allora. E allora va bene. Ragazzi, va benissimo. Antonio lo sento lo stesso, bene, no, non c'è problema. A tu. Se potete salire, salite così, perché lo posso vedere. E poi posso vedere come stiamo riuscendo con un pezzo di virus. Cara, cara. Non c'è problema, Natale. Amico della Grecia. Fatti, spirito libero, si ascolti qua a nord di Sardegna, bulldozer chi ama, cambia. In quella frequenza là che devo fare un salutino, se lo sento, e così gli dico che gli ha mandato la QSL. Un altro a 555 in banda laterale, provo lì e poi a 725 dovrebbero essere le chiamate. Comunque provo in chiamata internazionale prima là. Sassari la mia. Allora, mi dicevamo capito. Tanto sulla tua, chiamano per vedere. 5, nord dell'Italia, c'è cioè, la radio criminal Gambio a Gambio. Ascoltate io lei, c'è un mescolazzo della costa ionica, Gaffa, Gaffa, Gaffa. Attenzione, attenzione, copiate qua il nord della Sardegna, la città di Sassari che fa chiamata KPK. Sicuramente, perché se no mi arriva bene il motore.